versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, e da oggi con la nuova programmazione, col programma Il Falco, il Gabbiano con Enrico Ruggeri, che mi ha preceduto, inizieremo ben 5 minuti prima ogni giorno, che rispetto ai miei pochi minuti è un enorme regalo, quindi sappiatelo, da oggi si inizia alle 16.30 puntuali, non più 35, 36, 37 come prima. Detto tutto questo, buon inizio settimana a tutti, buon inizio a tutti del settennato Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Io invito tutti, chi non l'avesse fatto, a sentire in podcast i conti della belva che abbiamo fatto sabato scorso dalle 10 alle 12 con Carlo Alberto, Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, perché siccome l'intera puntata era su Mattarella, lì troverete tutte le nostre perplessità. Siamo minoritari, sì, perché devo dire che guardando questi giorni i grandi giornaloni, la lingua srotolata e le tonnellate di saliva si sprecano, c'è anche qualcuno che ogni tanto vi dice delle cose di qualche perplessità su tutto quello che è successo, sul tipo di personalità politica, ma auguriamoci comunque tutto il bene possibile, come sempre, per il nostro paese. Però non mandiamo il cervello in soffitta. Ecco, a proposito di non mandare il cervello in soffitta, la puntata di oggi serve appunto a controprova del fatto che non bisogna mandarlo mai il cervello in soffitta. Di che cosa ci occupiamo oggi? E quindi decidete subito se telefonarci all'800 24 00 24 o di mandare, come sempre, i vostri sms 349 238 6666. Torniamo sulla vicenda di cui ci siamo già occupati due volte, quella relativa al decreto di attuazione della delega fiscale varato dal Consiglio dei Ministri la vigilia di Natale, e in particolare alla norma che tanto fece polemizzare prima di sparire dall'attenzione dei giornali per via della terrificante strage di Charlie Hebdo a Parigi, cioè della norma messa nell'articolo 19 bis del decreto attuativo della delega fiscale, quella della cosiddetta franchigia sui reati fiscali, compresi quelli dolosi, compresi quelli di frode. Allora, noi ce ne siamo già occupati e abbiamo affrontato nel tempo alcune questioni su quella polemica. Sapete che molti hanno parlato di una norma ad personam, che si poteva riferirsi ovviamente a un'applicazione che faceva decadere la condanna di Berlusconi. Tra l'altro, oggi, subito dopo l'elezione del Capo dello Stato, è stata riconosciuta la richiesta di Berlusconi di far terminare con 45 giorni di anticipo la sua condanna accessoria, quindi la condanna accessoria terminerà l'8 marzo, giorno della donna, la festa della donna. E sapete che quella polemica sul decreto fiscale, oltre all'aspetto del punto interrogativo non è una norma ad personam, aveva tutta una serie di punti interrogativi, perché a oggi ancora non è stato detto con chiarezza come qualmente quella norma si è materializzata nel decreto fiscale, perché il Ministero dell'Economia e la Commissione Tecnica che ha steso il testo al decreto attuativo l'ha disconosciuta, ha detto che non è uscita così dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi Padoan non c'entra, l'hanno messa a Palazzo Chigi, Renzi disse la responsabilità me la prendo io, ma ancora non è chiaro come equalmente quella norma sia entrata in quel decreto. In una trasmissione rispondemmo ad alcune domande che venivano da molti di voi a seguito della polemica. C'erano domande su: è un eccesso o meno rispetto alla legge delega? E con il professor Raffaello Lupi abbiamo riletto la delega e effettivamente un eccesso di delega non c'è, perché il testo della legge delega, in merito all'lenimento delle sanzioni penali tributarie, in realtà consentirebbe pure quello che hanno scritto nell'articolo 19 bis. Poi arriviamo al merito della faccenda. Al merito della faccenda ricostruimmo che delle soglie per le sanzioni ci sono già nella nostra legislazione, punto numero uno. Però punto numero due, concludemmo che anche alla luce di un esame comparato delle altre legislazioni, il professor Lupi ci disse: la mia opinione, la sua ma è anche la mia, è che è vero che possa convenire talvolta, piuttosto che mandare la gente in carcere, applicare sanzioni amministrative che si moltiplicano per due o per quattro rispetto all'imposta dovuta. Detto questo, ci disse il professor Lupi, attenzione, perché nei reati di frodi fiscali, quindi di atteggiamenti dolosi reiterati nel tempo, le frodi carosello, eccetera eccetera, Bene, ci disse il professor Lupi, mi pare difficile mettere fattispecie di franchigie e tetti, perché in quel caso, per quanto rischiosa possa essere nel nostro paese, bisogna per forza accettare l'idea che il pubblico ministero, cioè le procure, abbiano una soglia di discernimento per valutare il comportamento e il tipo di reato, la gravità del dolo e così via. Queste fu le conclusioni a cui siamo giunti fino a questo momento, in attesa che, come Renzi ci aveva detto, il 20 di febbraio in realtà il testo torni in Consiglio dei Ministri, e l'attesa era che venisse modificato, non modificato, come, quando e se. In questo fine settimana, cioè ieri, è una trasmissione molto seguita da domenica pomeriggio, il ministro Boschi ha detto che la norma viene confermata e ha fatto un esempio per il quale l'Italia non ha niente da giustificarsi, il governo non ha niente da modificare, perché rispetto a questa norma ce ne sono altre, ha fatto un esempio preciso, quelle francesi, che sarebbero anzi molto più ampie. Qual è la norma di cui stiamo parlando? Ricordiamola a tutti. La norma di cui stiamo discutendo è quella per la quale i reati fiscali di evasione e frode sono depenalizzati se l'IVA o l'imposta sul reddito evaso non supera il 3% dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imponibile dichiarato. Quindi è una percentuale fissa che prescinde dalle quantità dell'imposta o dell'imponibile, dell'imposta evasa o dell'imponibile dichiarato, che quindi si applica a tutti nella stessa modalità, ed è una norma di depenalizzazione fissa. Ieri interviene il ministro e dice: ma perché tanti si scandalizzano in Italia? In Francia non solo c'è la stessa franchigia, ma anzi è più di 3 volte più ampia, è fino al 10%. Allora, a questo punto, chi fa informazione si deve porre un problema e deve capire: è così? Non è così? Ecco, con l'ospite di oggi, tanto per cambiare rispetto a sabato, uno della compagnia dei Conti della Belva, cioè Mario Seminerio, ora vi spieghiamo, a prescindere dalle simpatie o antipatie verso il governo, verso Berlusconi, verso chiunque, se quello che ha detto il ministro Madia è vero oppure non è vero. E con noi Mario Seminerio, buon pomeriggio, grazie Mario. Ciao Oscar, grazie a te. Seguite tutti, ovviamente, lo dico sempre quando lo presento, il suo blog fastidio.net, una controlettura più che quotidiana rispetto ai fatti dell'economia, quello che dice la politica, l'andamento dei mercati e le molte, diciamo così, molti luoghi comuni che bisogna sottoporre ogni volta alla verifica dei fatti. Allora, verifica dei fatti. Mario, lascio a te la parola. Questo esempio citato dal ministro ieri per dire che la norma non solo non va corretta, ma quella francese è 3 volte più benefica nei confronti delle frodi fiscali, è vero o è falso? Allora, cerchiamo prima di chiarire un punto. Io credo che il governo debba chiarire preliminarmente a se stesso se vogliono effettivamente perseguire la frode fiscale o depenalizzare anche la frode fiscale assieme alla errata interpretazione della legge, poiché in tutti questi mesi e settimane mi pare che il concetto non sia ancora chiarito, bisognerebbe che preliminarmente facessero chiarezza nelle loro teste, perché per me non è un problema, si può anche dire: guardate che noi depenalizziamo la frode fiscale entro la soglia del 3% dell'imponibile, prendiamo atto, chi propone questo se ne assume la responsabilità politica davanti al paese, poi a me diciamo importa relativamente, l'importante è recuperare il materiale imponibile evaso, no? Se la vogliamo dire tutta, certo. Quindi non è che a me faccia piacere vedere delle forche o incarcerare gente, anche perché vedo che ci sono delle interessanti, tra virgolette, campagne di stampa che dicono: ma guardate quanta poca gente c'è in carcere per evasione fiscale. Allora vorrei evitare che il motivetto diventasse quello, no? Del tipo: allora mettiamone dentro un po' di più, così siamo tutti più felici anche se non recuperiamo un euro. Tutto ciò premesso, il ragionamento della Boschi è sbagliato. Io sono andato a controllare il Code General des Impôts francese, l'articolo 1741, così come modificato da una legge del dicembre 2013, stabilisce le fattispecie in maniera puntuale di frode fiscale, e in coda naturalmente c'è una sanzione di 500.000 euro e 5 anni di carcere, elevabili a 2 milioni e 7 anni in caso si sia realizzato a mezzo di associazione a delinquere, ma c'è anche un piccolo codicillo che è quello dal quale, di esenzione, dal quale probabilmente la Boschi ha attinto la sua fiaba, cioè nel caso di occultamento di materia imponibile non si applica, diciamo, la disposizione, se non quando tale occultamento, dissimulazione, eccede il decimo della somma imponibile o la somma di 153 euro. Quindi è un o, non un o-e. Quindi a questo punto mi pare che di che cosa stiamo parlando per l'ennesima volta, ma non basta, visto che nelle ultime ore abbiamo visto, e tu stesso l'hai visto sui social, che esiste un discreto numero di persone che si sta aggrappando ai vetri pur di legittimare la tesi della Boschi, diciamola tutta, la proposta della vigilia di Natale del governo, che poi è stata congelata, era relativa alla depenalizzazione di fattispecie di frode fiscale entro il limite del 3% dell'imponibile, sì, quindi dell'utile lordo aziendale, mentre questa norma francese è relativa a singole voci di materiale imponibile, quindi anche singole fatture, singole scritture contabili. Da lì deriva l'importo dei 153 euro come soglia. Voglio dire, se tu hai 1530 euro di fatture, no, che sono fatture attive, che sono una parte di imponibile, e praticamente ne occulti deliberatamente, cioè commetti una frode, il 10%, ecco che scatta la fattispecie penale. Quindi questo non vuol dire che c'è il liberi tutti, no, prendiamo il 3% di esenzione dall'utile di imposta e non c'è più il penale, in caso anche di dichiarazione fraudolenta. Quindi ancora una volta, a parte l'estremo provincialismo, no, del tipo me l'ha detto mio cugino e in Francia il 10% è depenalizzato, ma cerchiamo di parlare di cose che conosciamo e di argomenti che padroneggiamo. Io continuo a vedere in questo governo un incredibile dilettantismo proprio nel padroneggiare gli argomenti. Qui stiamo parlando della depenalizzazione, nel primo testo del governo della vigilia di Natale, ribadisco, depenalizzazione del 3% dell'utile dell'imponibile aziendale, in fattispecie di frode fiscale. È questo che noi vogliamo? Se sì, basta andare davanti agli italiani e dirlo, se no occorre che ci mettiamo d'accordo con noi stessi. Allora, questa ricostruzione, che voi troverete anche se compulsate un pochino da stamattina, diciamo, che gli addetti ai lavori, diciamo, non in maniera molto estesa, però intanto alcuni hanno iniziato a citare questo articolo della legge francese che dà radicalmente torto alla tesi sostenuta dal ministro ieri in televisione. A questo punto le domande diventano plurime, perché avete sentito Mario, come si fa a dire che la nostra norma proposta dal governo il 24 non deve destare scandalo, citando una norma che in realtà, come vedete, prevede il penale, apre alla procura sopra i 153 euro come soglia, e a dirla tutta troverete anche, perché alcuni stanno tirando fuori gli atti parlamentari di questa norma che è stata modificata in Francia nel 2013, troverete anche interventi parlamentari e interventi degli ordini degli avvocati in cui chiedevano che questa soglia troppo bassa di 153 euro, dopodiché, ripetiamolo ancora una volta, si entra nel penale in Francia, venisse elevata, ma fatto sta che in Francia non è stata elevata. Allora la domanda diventa, ma come è possibile che di fronte a una norma proposta e congelata, che destava tanti interrogativi perché non nasceva dalla volontà dichiarata, poi si può pure fare, di fare un colpo di spugna sulle frodi e non sugli errori fiscali, si finisce poi per fare un doppio autogol di queste proporzioni? Domanda, ma chi è il consulente fiscale di Palazzo Chigi? Ma possibile che continuino a far da soli, perché escludo che un pezzo di carta in questo senso gli sia venuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o dall'Agenzia delle Entrate, che possono avere tutti i difetti del mondo, ma non quello di citare leggi tributarie di altri paesi membri dell'Unione Europea che asseriscono l'opposto di quello che dice il governo? Oppure di che cosa si tratta? Di consulenti impreparati, va bene, ma anche dell'incapacità di sottoporre a vaglio chi dà i pezzi di carta di consulente a membri del governo che vanno in televisione a rispondere proprio di una vicenda che tanto interroga milioni di italiani? Ecco, tutte queste domande, ripeto, secondo me sono l'ABC di un tentativo di fare informazione che deve stare sui fatti. fatti e verificarli. Mentre invece molti pensano che a questo punto sollecitare questi interrogativi sia in contraddizione col fatto che io faccio meno la battaglia per meno tasse. Certo, ma questo non significa che voglio riforme del piffero, che mettano sullo stesso piano chi fa un errore nella propria dichiarazione rispetto a chi mette in piedi frodi fiscali, carosello. Perché intendiamoci bene, cari signori, se voi pensate che io venga sfiorato da questo dubbio, io non ce l'ho mai e non ce l'avrò mai. Io posso anche immaginare che un governo voglia fare un colpo di spugna, però A lo dice, B ci spiega come e perché quella norma è nata, cosa che continua a non fare perché la dichiarazione di Renzi non lo spiega, C se pensa poi di appoggiarsi a questi luminosi esempi di norme che dicono l'opposto per tacitare le critiche, beh, a questo punto il problema non è il consulente, non è il ministro, non è il Presidente del Consiglio, ma scusate, alla terza volta che capita sulla stessa norma, uno ha l'obbligo di chiederci, ma ci prendono tutti per imbecilli? Ecco, queste domande fatevele, ci sentiamo tra un po' perché adesso c'è l'informazione stradale e spero che qualcuno di voi mi dia una risposta. Pensate che esageriamo noi? Oppure c'è un interrogativo legittimo, pur nel mentre tutti brindiamo all'elezione stupenda del capo dello Stato Mattarella? Ecco, pensateci e telefonate 800 24 0024 tra poco a strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.47, primi 30 secondi, agli studi di Milano di Radio 24, qui è la versione di Oscar, Oscar Giannino insieme a Mario Seminerio. Vi abbiamo spiegato un punto di vista documentato di verifica dei fatti rispetto alle affermazioni del ministro Boschi ieri sulla contestata norma del decreto di attuazione della delega fiscale, quella che stabilisce soglie di impunità senza distinzione per gravità di reato tributario e quindi anche alle frodi fiscali entro il 3% dell'impenibile, cioè del reddito lordo d'impresa. Ieri il ministro ha detto in Francia è tre volte tanto, peccato che la norma francese citata apra al penale sopra i 153 euro. Questi sono i fatti e poi naturalmente su cui bisogna interrogarsi. È vero anche che il ministro Boschi ieri nella stessa trasmissione ha detto che la scelta di una persona molto navigata della politica come l'ex democristiano e poi margheritino Mattarella serve anche per scelta come valutazione consapevole dell'attuale governo ad avere sopra di sé una persona navigata che, come ha detto lei, siccome il governo è composto di giovani, quando sbagliamo ci dica che sbagliamo. Ecco, forse è un bene però evitare errori di queste proporzioni, soprattutto quando sono reiterati in re ipsa per tre volte, come capita su questo tormentato decreto attuativo della delega fiscale. Io vorrei che il confronto fosse sul merito e che adesso la cosa non diventasse inevitabilmente i fan del governo da una parte e gli amici che ne so di Berlusconi dall'altra. Stiamo al merito delle cose. Chiediamoci se ci dobbiamo preoccupare di non sapere da dove venga questa norma. A. B. Siccome non lo sappiamo, ma comunque è stata sospesa e tutti hanno capito che c'era una ragione forse per cambiarla, non viene cambiata, e C, com'è che poi ci si appoggia per questa norma a una norma che dice l'opposto? Sentiamo come la pensano alcuni di voi e poi giriamo i vostri interrogativi e considerazioni di nuovo a Mario Seminerio, che è con noi. Paolo da Firenze, prego Paolo. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Io vi stavo ascoltando con molta curiosità. Diciamo, non sono né un professore né un esperto né di economia né tantomeno di politica. Però sei un contribuente. Sono un contribuente, esatto. E mi sento, non sono chiaramente dalla parte del governo Renzi, non ho problemi a dirlo, però sinceramente lo guardo con scetticismo da qualche anno, ma non c'è stato mai alcun fatto che mi abbia portato l'orientamento ad avvicinarmi. Io ieri all'arena di Giletti l'ho vista l'intervento della signora Boschi, ma non soltanto di lei ma tanti altri esponenti di questo governo, e nonostante io non sia un esperto di economia, comunque quando vedo delle cose non mi tornano vado a informarmi, perché sì, mi tengo un cittadino e mi voglio informare se vengo preso in giro. E su questa vicenda che pensi? No. E su questa vicenda penso che sia tutto una cosa già costruita a suo tempo, perché penso che il patto del Nazareno non sia soltanto un patto dovuto a riformare il paese, ma bene o male ci siano dei compromessi grossi che chiaramente arriveranno a noi cittadini nascosti fra Renzi e Berlusconi, e uno di questi è questo patto, che potrebbe anche servire a Berlusconi a salvare il suo impero, le sue aziende. No, no, momento, questo patto fa decadere una condanna per frode fiscale se viene tolto così, esatto, come questo. Appunto, se fa cadere una condanna per frode fiscale, io da cittadino mi faccio una domanda: Renzi sicuramente vorrà governare questo paese, ma dovrebbe dire a tutti i cittadini che il governo sta in piedi, ma per stare in piedi un governo del genere ha bisogno... No, no, basta dirlo, dici tu, basta dirlo. Ieri il ministro infatti ha detto, ma no, questa norma si applica a tutti gli italiani, non è che io posso non sostenerla solo perché si applica a Berlusconi, non è che l'abbia negato, però basta dirlo, questa è la mia idea. Anche se però nel dirlo scegliete una legge che dice la stessa cosa, se la citate, perché se ne scegliete una che dice che si va in penale sopra i 153 euro, beh, le mie perplessità crescono. Sentiamo Maurizio, che ci chiama da Pistoia, mi dicono. Prego Maurizio. Pronto? Eccoci Maurizio, vai. Salve Oscar, volevo solamente intervenire appunto riguardo a quello di cui stavate parlando, riguardo alla manina, diciamo, di Renzi. Anche per te c'è una manina. Sì, ma la manina, sa, la manina, perché sono quelle cose che in Italia si chiedono sempre, perché? I bambini, insomma, o lo fa o davvero si decide nel paese dove abbiamo un'evasione spaventosa, insomma, siamo tra i più corrotti del mondo, ci stupiamo perché c'è la manina quando, guarda caso, salva appunto Berlusconi e dall'altra magari fa anche un regalino magari ad altre personalità che... Quindi tu estendi il sospetto, ci sono anche amici del Giglio Magico secondo te? Ma guarda, qualcuno magari che ha che certamente fa piacere, insomma, ho capito Maurizio, ma secondo te fare certe leggi un pochino ad hoc, ammesso e non concesso, persona, come diceva Totò, Maurizio, che tu abbia ragione, perché io non lo posso sapere, noi non lo possiamo sapere, ma perché a quel punto, di fronte a questo rischio evidente, no, dei retroscena, dei retropensieri, secondo te citare una norma così platealmente sbagliata come quella del ministro, secondo te è incompetenza? Che cos'è? La cosa un pochino chiaramente lascia un pochino esterno, fate, dice, come fai così sfacciatamente? Poi quando lo vai a chiedere, appunto, ti risponde a Boschio con queste cosine di fantasia, con queste leggi che va a vedere, che interpreta un pochino a modo suo, e da una parte, appunto, come diceva appunto il signore che ha parlato prima, adesso non ricordo, sì, più sicuramente esperto di me in materia, al quale appunto traduceva un pochino qual era, cosa diceva esattamente quella legge francese, sì, e l'interpretazione dall'altra della Boschi, ma se anche per caso io ho notato negli anni in Italia, siamo fantastici, perché anche mettiamo che fosse vero, mettiamo che in Francia ci sia questa cosa che veramente si può evadere il 10% a fare una cosa fiscale. Come dici tu, mettiamo che sia vero, non cambierebbe nulla, perché questa norma qua ha un altro significato. Perché negli anni lo fanno. Ho capito. Una stupidata, una porcata, dicono sempre, ma questa cosa qui, se guardate in Inghilterra, esatto, ma no, non è che se la fa un altro dobbiamo farla anche noi. Però nel frattempo, aspetta che sta decadendo la linea, quindi dobbiamo andare un'altra telefonata, ma nel frattempo ripeto a chiunque se ne ascolto, noi vi abbiamo citato l'articolo 1741 del codice generale delle imposte francesi, che è in vigore, modificato dal 2013, se volete metterci alla prova, quello è il testo, è il testo. Sentiamo ancora Christian che ci chiama da Milano. Prego Christian. Ci sei Christian? Non ci sei? Allora c'è Armando da Palermo. Armando, hai ragione tu Oscar, in pratica non ci prendono per imbecilli, ci prendono per coglioni totali, scusa l'eufemismo. In pratica questa è la stessa norma del falso in bilancio, con la scusa che si deve applicare a tutti gli italiani un obbrobrio del genere, è chiaro che poi favorisce solo uno. Ma io la colpa non gliela do a Renzi, non gliela do ai nostri politici, io gliela do a quegli italiani più coglioni che sono, che praticamente gli pisciano in testa e votano sempre le stesse persone. Armando, è anche la tua considerazione, anche se rispetto al procedimento legislativo in corso, no, ma figurati, rispetto alle opinioni di tutte. Sentiamo Cristian, che appunto da Milano era caduta la linea. Prego Cristian. Buongiorno, volevo rispondere alla sua domanda. Sì. Penso che la domanda che ha posto è: sì, pensano che siamo imbecilli per un semplice motivo, perché quando anche fanno cose così platealmente sbagliate e noi ce ne rendiamo conto anche attraverso trasmissioni come le vostre di Radio 24, che ci tengono fortunatamente informati, tanto non abbiamo nessuno strumento legislativo, legale, che nelle nostre mani, che ci possa consentire di fare qualche cosa. Abbiamo un ministro incompetente e lei ci risponde, e allora? Intanto però Mario Seminario, no, ho capito, però intanto lode a quelli come Mario Seminario, attento a quelli nell'informazione, pochi o tanti che siano, che ci mettono nelle condizioni di dire: signora, stai sbagliando. Mario Seminario, bisogna rassegnarsi oppure no? non saprei, cioè io sto cominciando a stancarmi più che rassegnarmi, però quello è un problema solo mio. Io vorrei solo ribadire una cosa: prendete un'azienda italiana che ha un utile lordo di 100 milioni, applicate alla lettera la fattispecie del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, quindi 3% dell'imponibile, anche in caso di dichiarazione fraudolenta a mezzo, certo, di artifici, sono 3 milioni di euro di frode fiscale. Grazie Mario Seminerio, scordatevelo contribuenti ordinari che siete tartassati, di questo stiamo parlando, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.